Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Di Rosita Celentano e Angelo Vaida. E buona domenica a tutti. Queste domeniche meravigliose in questa città che io amo tanto, nonostante magari qualche cosa da sistemare, però io amo tanto Milano, secondo me è molto migliorata negli ultimi anni. Ah, bellissima, sì. Detto ciò, non restate con noi tutta la domenica perché ci sono un sacco di programmi interessanti da ascoltare. Non restate o restate? No, restate. Cioè, sembra perché quasi dici, un paradosso. Restate. Oggi continuiamo a parlare del nostro articolo di Focus. È una traccia che stiamo seguendo per ottenere ragione tra persone, ci vuole gentilezza, ma la stessa cosa è col cane. E oggi parleremo di... Due Galileo Galilea, due rette che vanno all'infinito. Chi le paga? Se A è uguale a B e B è uguale a C, che ti frega retrocedere? Questa è scienza. Fantastico Crozza, io lo amo profondamente. Allora, il punto quanto di profondamente? Oggi... È un paradosso anche questo, Rosita? Dottor Vaira, molto profondamente. Lo stimo molto. Lui e anche la moglie di cui leggo i libri. Insomma, fantastica. Famosa. Doppiatrice del pesciolino di Dory. Dory di Nemo. Dory. Come ti chiami il pesciolino? Nemo? Nemo? Bel nome, geniale, ce l'amo. Allora, usate i paradossi, è l'altro punto, il nono punto. Le affermazioni paradossali aiutano a sgretolare le certezze, sono destabilizzanti, mandano l'altro in confusione, predisponendolo a lasciare spazio a idee diverse, tipo confessare una debolezza o un gesto di superiorità. Facciamo un esempio. Questo. L'altro esempio di quel genio di Oscar Wilde, altra persona che io amo da morire: ogni volta che la gente è d'accordo con me, ho la sensazione di avere torto. Fantastico. C'è anche qualcosa forse riguardo Milton Erickson, che è uno dei personaggi che io ho studiato tanto, è il fondatore della ipnosi clinica, no? Quella usata in medicina. C'era qualcosa che diceva. Dice: la sicurezza è la cosa più pericolosa del mondo. Ecco, vedi. Ma non lo diceva lui, lo diceva Hugh Walpole. Ok, ripreso più volte da lui. Da lui, sì, esatto. E con allora, su questo io ho poche cose da dire per il cane, sui cani, però apro una riflessione. Che cosa accadrebbe se qualcosa per la quale il cane sente minacciato diventasse improvvisamente per lui invece fonte di piacere? Si può fare questo? Ne parleremo nelle prossime puntate. Ma che cos'è? È una riflessione aperta. Aspetta. Un cane, per esempio, è aggressivo con altri cani, no? È aggressivo normalmente perché si sente minacciato dalla loro presenza, sì. No? E allora io dico, c'è un modo per far reagire il cane in modo piacevole alla presenza di un altro cane? Sì che c'è. Sei preparata su questo? Te lo ricordi? Sì, lo so. Ne parleremo. Però lo puoi spiegare meglio tu. Eh beh, allora, se io per esempio... Perché rimandare a domani quello che si potrebbe fare oggi? Ma è un argomento... cioè, questo è un argomento veramente complesso, però l'effetto paradosso si potrebbe ottenere proprio in questo modo, okay. No? Se io cambio alcune condizioni, come per esempio l'altro cane lo metto lontano e questo cane qui che ha paura, si sente minacciato, aggressivo con gli altri cani, gli faccio fare dell'altro, con l'altro cane lontano, la sua reazione non sarà così esplosiva, no? Mm-hmm. Sarà un po'... si sentirà un po' minacciato, ma l'altro cane è lontano. Quindi cosa fai? Gli fai fare delle cose belle. Dei percorsi a terra, un po' di ricerca, gli fai fare un po' di clicker training, che è un mezzo per insegnare al cane delle cose in modo divertente. E questo cane si accorgerà della presenza dell'altro, ma comincerà a legarlo a delle attività piacevoli. Oppure un altro metodo che si può usare: appena questo cane guarda l'altro in lontananza, in quell'istante tu gli dici bravo. E quello dice: ma come bravo? E magari lo premi pure. Allora questa continua associazione comincia a far diventare la presenza e la vista dell'altro cane piacevole, ed è un effetto paradosso. Hai visto? Vai, era come sei preparato. Guarda, io se fossi te aprirei una scuola per formare educatori cinofili. Quando dico mio papà, io se fossi te farei il cantante. Ecco, guarda. Allora, dicevo, queste domeniche su Radio 24 sono meravigliose. No, state in nostra compagnia, perché ci sono programmi di attualità come Si può fare, di Alessio Maurizi, Maria Latella con questo programma Nessuna è perfetta, il famoso il treno va di Gianluca Nicoletti, poi ci abbiamo Gigi Telesforo, che saluto tanto, che è tanto tempo che non lo vedo, con Soundcheck, anzi ogni tanto mi lo ascolto anche, insomma Un libro tira l'altro, Musica maestro, insomma L'altra domenica su Radio 24. E detto ciò, Ci abbiamo il nostro... No, non ci abbiamo nulla, Rosita. Mancano ancora un po'. Perché mi fate questi scherzi del capo? Guarda che sono stufa, eh. Guarda che non ne posso più, non ne posso più. Sono stufa, eh. Di che cosa noia, sei stufa? Che barba, che barba, che noia. Che noia, che barba, che mi fai i trabocchetti. Io già da sola mi impappino, mi... Allora, vogliamo fare una ricapitolazione di questi punti? La ricapitolazione erano i 10 punti... No, per... ricordiamo tra l'altro che questi li si può trovare tutti nelle nostre precedenti puntate sul sito di Radio 24, perché ognuno di questi punti che noi abbiamo appena trattato, che tracciano un parallelo tra come avere ragione in umane, come convincere un cane, li si può trovare nei podcast, perché uno che ci ascolta, per esempio, ascolta un pezzettino di questa trasmissione e dice: ma adesso tutto il resto dove lo trovo? Esatto. Dove lo trovo, esatto, tutto il resto? Perché abbiamo parlato del per esempio dell'aldilà con Franco Battiato, Guidalberto Bormolini, abbiamo parlato di un sacco di argomenti telepatia, interessanti. Di telepatia con Andrea Conte, abbiamo parlato di alimentazione per i cani, qual è quella giusta, abbiamo parlato di cose legali del condominio, quando uno ha un cane in condominio, i rumori, si abbaia, abbiamo parlato di aggressività, abbiamo parlato di un sacco di cose. C'è allora, anche gente che mi chiede qual è la come si dice, come ci si sincronizza in radio, la frequenza radiofonica di Radio 24 in tutta Italia, suppongo che cambi, giusto Peter? Sì, ecco, cambia. Però in un punto dove non cambia, se voi andate sul vostro computer, oramai i computer ce l'hanno tutti, mettete www.radio24.it, andate a vedervi tutti i programmi che fa la radio. Tra questi c'è Chiedimi se sono felice. .com. Ah, punto radio24.com mi hanno suggerito, ovviamente. Ok. E tra questi ci sono tutti i podcast, anche quello Chiedimi nostro. Chiedimi se sono felice. Chiedimi se sono felice, potete recuperare tutte le puntate che volete. Detto ciò, caro il mio Vaiva. No, dicevamo, io manca veramente soltanto un minuto, no? Qual è stato il punto di questi che a te ha impressionato di più? Ascoltare, sincronizzarsi. È quello che non abbiamo ancora fatto, il decimo, non lo dire. Ah, è il decimo. Non lo dire. Il decimo. È quello che non abbiamo fatto, il decimo. No, sono tutti molto molto molto importanti. Ascoltare anche l'altro, sì. Un cane che non ascolta, un cane che non è ascoltato, esatto, no? Queste cose qui. Sincronizzarsi con l'altro. Il ricalco e guida sarebbe quello. Identificare le radici, da dove arrivano le convinzioni per le quali uno e non... E cioè andare a capire che un cane si può comportare in un modo e questo deriva dalle sue tendenze comportamentali di razza, no? Fare argomentare, cos'è che era col cane, non mi ricordo più che cosa abbiamo detto. Osservare il cane come si comporta per poter ascoltarlo meglio, piuttosto che imporgli sempre il nostro punto di vista. Discutere di persona. Questa è la comunicazione non verbale, no? I cani ci insegnano un sacco sulla comunicazione non verbale, perché noi siamo attenti a quello che diciamo, mentre i cani a quello che facciamo. Esatto, che dovremmo anche noi stare attenti a quello che facciamo. Sì. Molti fatti e poche ciance. Stimolate l'autostima. Anche il cane, sì, ha un'autostima. L'autostima è una valutazione delle proprie capacità, di quanto un cane vale. Questo dipende dal fatto che noi non lo mettiamo sotto una campana di vetro, ma lo mettiamo a contatto con delle sfide che lui possa superare, ma anche a quanta importanza gli diamo. Se noi prendiamo il cane e lo facciamo vivere in giardino da solo, la sua autostima cade giù, perché il cane autovaluta il fatto che lui vale poco per quel branco, per quel gruppo, e si prime. Ecco, cioè, questo diventa un cane triste. Questo a me piace molto, questo che mi hai detto mi piace molto, ma anche questo qui che vi dico: non abbiate fretta, lo dicevamo stamattina. Non bisogna avere fretta, niente, non si può avere fretta. Qui adesso ci mettono fretta, focalizzatevi sui fatti, usate i paradossi. E la prossima volta vedremo il decimo punto. Che traffico. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Ed eccoci. Allora, sai quante volte ci siamo detti, Rosita, che... Strozzando. Vedo. Infatti, per dire, eccoci qua. Sai, vieni. Quante volte ci siamo detti che il progenitore del cane è il lupo? Certo, no? Sempre praticamente. Allora, tu devi sapere che in alcune parti d'Italia si stanno dando un grande affare perché il lupo sia tutelato e rispettato, sì, però ci sono delle contraddizioni a volte. Le contraddizioni ma dai, anche pesanti. E forti. Strano, l'Italia non ci sono contraddizioni. Come mai c'è questa contraddizione adesso? Quindi pare che per tutelare dei lupi vogliano abbattere dei cani randagi. Ma però dai, ci sono tante cose da andare a vedere. Allora, per capirne un pochino di più, siamo andati a chiamare, ce l'abbiamo quel telefono con noi, il presidente dell'ENPA, Carla Rocchi, perché sull'argomento è molto ben informata. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno Carla. Buongiorno cari. Allora, in che modo i cani sarebbero così nocivi? Esatto, un pericolo per i lupi? I cani sono nella condizione di essere randaggi e quindi rappresentare quello che gli altri vogliono far immaginare come un pericolo, semplicemente perché la nostra legge che tutela gli animali non è applicata. Questa legge è vigente dal 91. Se fosse applicata, voi vedete lupi scorrazzare per Milano, vedete lupi scorrazzare per cani, scorrazzare in branchi per Genova, e allora al nord questa situazione non esiste, non perché la legge che tutela gli animali è applicata molto semplicemente. Cioè, la legge che tutela gli animali dice non vogliamo i cani randaggi, quindi giusto, è questo. La legge dice questo, che gli animali devono essere tutelati, nel senso che non devono esistere i randaggi, ma non perché uno li spara, ma semplicemente perché vengono messi in atto dei progetti e programmi di sterilizzazione, per cui l'animale piante sul territorio non esiste, c'è. Perché è una condizione innaturale, il cane è un animale sociale, deve stare con le persone. E noi abbiamo questa forte differenza tra il nord del nostro paese e il sud, per cui la legge buona e applicata al nord e buona ma non applicata al sud determina che al sud ci sia un randagismo elevato. Allora il problema non sono i cani randaggi, non sono i lupi, ma il problema è la cattiva applicazione della legge. Quindi primo punto, se anche loro dovessero riuscire, mi auguro di no, ad abbattere questi cani, il problema si ripresenterebbe perché deriva da una mala gestione del fatto, da una giusto? Non gestione, da non rispettare le leggi, una pessima gestione, perché pessima. Oltretutto accade questo, che gli animali quando vengono abbattuti, laddove vengono abbattuti, perché in altri paesi, noi siamo l'unico paese che ha questa legge avanzata, quando un animale viene abbattuto ne arriva un altro che prende il suo posto, quindi sì, almeno di fare una mattanza totale. Ecco, certo. Non si risolve nulla, ma proprio nulla. Questo problema si risolve applicando la legge, cioè sterilizzando i cani. Ma detto questo, i detrattori, no? I prodi sparatori di possessori di doppiette, come la mettono questa cosa? Dicendo è minacciato il povero lupo. Poi tra l'altro, ma tra che dopo che l'hanno sterminato, prima l'hanno sterminato, adesso è minacciato dai cani. Qual è il meccanismo? Non esiste nemmeno da sotto il profilo scientifico, perché esiste proprio la normativa, dice che quando anche esistesse di fronte a processi di ibridazione, il cane rimane, diciamo, la specie esiste, non so come dirvelo, ma funziona così. Un ibrido di cane lupo rimane lupo. Ecco, un ibrido di cane lupo rimane lupo fino alla quarta generazione, dopo la quarta generazione diventa cane, quindi è protetto in quanto lupo finché rimane prevalentemente lupo, ed è protetto dalla legge in quanto cane fin quando deve svoltare verso il cane. Allora uno dice, perché questa furia di sparacchiare? C'è sempre la solita storia dei rimborsi e dei risarcimenti. Sentiamo. Per i cinghiali, vale per gli orsi, vale appunto per gli amministratori di condominio, vale per chiunque. Cioè? Perché siccome c'è un business forte, se si riesce a dimostrare che esiste un danno provocato dagli animali, cresce l'aspettativa e cresce anche la possibilità di ottenere dei rimborsi. Questo è il meccanismo su da cui parte si di chi questi rimborsi? Dallo Stato, naturalmente. Ok, quindi c'è lo Stato che è pieno di debiti, fra l'altro. Esatto. Rimborserebbe chi? La regione? Rimborserebbe i danneggiati, cioè gli agricoltori. Allevatori che hanno animali. Ma non dimentichiamoci un fatto, che chi ha animali dovrebbe tenerli custoditi, mentre invece il più delle volte questi animali vengono lasciati vagare. O sfruttati è male, sfruttati, oppure abbandonati a se stessi. Di fronte al cosiddetto danno possibile che scatta questo meccanismo, allora vogliamo gli indennizi, e per avere gli indennizi e muovere le leve economiche cosa si deve fare? Si deve drammatizzare la situazione, quindi e paradossalmente, mentre una volta si diceva al lupo, adesso si dice al cane. Ma dai, è veramente paradossale. È sempre la solita storia di cialtroni. Il nostro paese ha una forte componente di cialtroni. Alcuni non sanno di esserlo, altri sanno di esserlo e perseverano contenti. Carla, sa che io la adoro per come parla, come è bella, tosta e diretta, cioè mi piace proprio. Anzi, la voglio anche conoscere di persona. Ma con grande piacere, guardi, lei veramente mi fa un regalo, perché è tanto tempo che la seguo. Grazie. Come poi non mi va di inserirmi nelle vite delle persone che hanno una notorietà, io l'ho sempre guardata da lontano, ma se troviamo l'occasione io volentieri, adesso organizzeremo. La cosa allucinante è che In realtà purtroppo la gente si fa, come si dice, imbambolare da parole quando escono i giornali, no? Dagli articoli. È vero, ahimè, che la stampa è molto manipolatrice, perché a seconda di come riporti un fatto uno lo percepisce che ha un significato piuttosto che in un altro, ma la verità poi non si dice mai fino in fondo. Gira e rigira, ci sono sempre interessi economici. Cosa possiamo fare per aiutare i cani in questo caso? Allora, prima cosa, dobbiamo opporci in maniera nettissima a qualunque cambio della normativa, cioè non esiste al mondo che uno possa sparare a un cane per una qualunque ragione. Non Sì, perché intendiamoci, qui si intende eliminare questi cani sparando a loro? Sparando loro, ma non solo, siccome chi va a sparare non è un come posso dire, un biologo oppure uno zoologo certo. fama, sparerebbe anche a sua nonna una volta che infila il fucile, capito? Sì. L'abbiamo visto, perché quando abbiamo intervistato Irving per il caso di Adamas, il cacciatore che ha sparato al suo cane ha detto: vabbè, pensavo fosse un randaggio. Cioè, il fatto di gente che tiene a sparare, quindi qualsiasi cosa si muove. Non ci dimentichiamo una cosa, che il randagismo è forte, è alimentato, ma al 99%, ma forte percentuale, dai cani lasciati e abbandonati dai cacciatori, perché voi sapete che questi gentiluomini provano, tra virgolette, il cane. Se il cane è come loro se lo aspettano, se lo tengono; se il cane non è come se lo aspettano, quando va proprio di lusso per il cane lo abbandonano, altrimenti gli sparano, come ha fatto questo signore. Guardi, Carla, mio cugino che ha adottato un cane che era rinchiuso da 3 anni in una gabbia di 1 metro per 1, perché quando sparava, un cane da caccia, perché quando lo portava a caccia e sparava, il cane scappava a paura degli spari. C'era quell'episodio assurdo di qualche tempo fa, di qualche anno fa, di quel cacciatore che il suo cane vecchio l'ha sepolto vivo e che poi lo ritrovarono. Sì. Veramente non si capisce come i cacciatori non si possano mettere una mano sulla coscienza e pensino veramente di sentirsi quelli dovrebbero averla la mano, lei dice, alla coscienza. E quindi, tornando a prima, quindi l'idea è quella che i cacciatori sparino a questi cani vaganti. Per evitare questo, dicevamo che bisogna innanzitutto porci a questo cambio di normativa, giusto? Assolutamente, ma tanto guardi, su questo fronte non passeranno, perché è recentissima una presa di posizione, perfino in collegamento tra Parlamento e Governo, che pure hanno i loro limiti, il Parlamento e il Governo. Sì. E tuttavia hanno approvato una risoluzione per cui la tutela degli animali rimane un valore primario. La verità è che questa gente deve trovare il suo giocarello. Questi devono trovare un modo per uscire in gruppo, per dire facciamo una battuta. Per sentirsi forti, no? Ma soprattutto perché per sentirsi uomini, per sentirsi forti. Ci vuole altro, cara. Quindi per opporci che cosa dobbiamo fare? Cioè, noi come possiamo aiutarla, Carla? Svelando quali sono i veri intenti del loro agire. Cioè, quando loro pensano di sparare a qualche animale, non è che lo fanno per difenderne un altro. Mi spiego, se loro dicono spariamo al cane per difendere il lupo, è una colossale bugia. Il punto loro è: andiamo fuori a sparare a qualcosa che si muova, perché del lupo non gliene importa assolutamente nulla. Anche infatti, perché lo hanno decimato loro, perché appunto, i lupi sono quasi scomparsi, ma chi gli sparava? Adesso invece lo tuteliamo. Comunque, Carla, lei è anche comica in un discorso così drammatico, perché non c'è nulla veramente da ridere, però insomma cerchiamo di, adesso a parte tutto, noi cercheremo di sdrammatizzare, rimanendo importante quello di cui abbiamo appena parlato. Carla, la ringrazio tanto. Grazie Carla Rocchi, grazie, presidente dell'EMPA. Voglio bene. Grazie anche noi. Arrivederci. Radio 24 apre una finestra sui problemi quotidiani delle persone disabili. Sono cittadini italiani come tutti gli altri, ma spesso costretti a vivere in un mondo fatto solo per normodotati. Ci diciamo anche noi disabili, perché tutti abbiamo diritto alla socialità, a muoverci nelle nostre città, ad avere spazi accessibili, a non essere considerati cittadini di serie B. Segnalaci ogni disattenzione, sopruso, barriera architettonica o mentale che un disabile sopporta tutti i giorni. Scrivi a anchenoidisabili@radio24.it oppure chiama il numero verde 800 00 2400 e noi ti daremo voce dai nostri microfoni. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Ma rieccoci. Quanto tempo è che non mi chiedi se sono felice? Ma te lo chiedo tutti i giorni. Ma poi che voglio bugiardo. Dire, ma come no? È che tu vedi che in me è proprio l'immagine della felicità ogni mattina appena apri gli occhi. Ma io occhi. Non è che te lo chiedo soltanto a parole, amore mio. Ah, certo. Allora, abbiamo in linea una persona che è stato un mio insegnante. Sì. E per me, insomma, è stato veramente un faro per tanti versi. Lui è un... Ha fatto fatica? Ha fatto molta fatica. Sì, infatti adesso glielo chiederemo, te lo confermerà. È un business coach, cioè lui si occupa di fare da coach, no, agli imprenditori, eccetera. È un docente, un formatore a livello internazionale, e ha scritto diversi libri. Tra l'altro anche su iTunes si trovano un sacco di suoi audiolibri che sono dei best seller, hanno venduto tantissimo. Però c'è un libro in particolare che rientra proprio, si collega alla nostra trasmissione, perché si chiama Prendi in mano la tua felicità. Allora gli ho detto, perché non vieni in radio a raccontarci? Tu l'hai preso in mano la tua felicità? Tante volte. Claudio, ci sei? Pronto? Buongiorno. Claudio Belotti. Un saluto Rosita, ciao Angelo, un saluto. Ciao. Ciao Claudio, com'è stato come allievo? Ha dovuto fare molte ripetizioni, Angelo? Assolutamente no, è stato bravissimo, è entrato nella storia perché è stato il primo allievo a essere accompagnato da un cane nella storia dei corsi in PNL al mondo. Beh, ma che pesante, un secchione proprio. Esatto. Beh, ma dai, in un modo o nell'altro mi devi sminuire, non ho capito questa cosa. Hai visto lì come è venuto... tanto che mi fanno un complimento, non lo so io. È venuto con un bellissimo pastore tedesco che si è comportato meglio di tutti i partecipanti che abbiamo mai avuto nei corsi. Fantastico. La precisione era un Australian Shepherd, un pastore australiano, ecco, però... Già sono ignorante qua. Ma sì. Senti Claudio, ma allora, la nostra trasmissione si chiama Chiedimi se sono felice, no? Quindi noi ci piacerà adesso tracciare un po' anche dei paralleli con gli animali, ma nella tua carriera, no, di coach, no, di persone che aiuta le altre persone, e con questo libro sulla felicità, alla fine la felicità che cos'è? Cioè, per te che cos'è la felicità? Che bella domanda. È un milione di dollari. A me piace pensare che la felicità è un po' una scelta che noi facciamo tutti i giorni, ed è la scelta di cercare nei limiti del nostro possibile di fare le cose che ci piacciono. Perché nei limiti del possibile? Perché ovviamente tutti noi abbiamo impegni, cose che dobbiamo fare, e abbiamo... Perché non si può fare solo quello che ci piacerebbe fare. No, e forse è giusto che sia così, ma nel nostro piccolo possiamo prenderci dei piccoli spazi, delle piccole decisioni per costruire un presente e un futuro che è quello che ci piace, migliorare le cose. Ma tra l'altro in questa settimana noi abbiamo fatto un live proprio dedicato appunto alla felicità. Guidalberto Bormolini, che è stato l'ultimo di terminare, diceva che nei filosofi anche per loro in fin dei conti la felicità è una scelta, e quindi torniamo di nuovo a questo. Ma c'è anche qualcosa che è riferito a sono felice se riesco a meno a fare qualcosa per rendere felice chi mi è attorno, a proposito di chiedimi se sono felice? Le ultime ricerche fatte dalle più prestigiose università del mondo, fra cui ovviamente Harvard, ma anche altre università, dicono che dicono le cose che le religioni ci dicono, che sì, noi siamo felici se invece di comprare cose, per esempio, compriamo esperienze. Certo. E se queste esperienze noi le facciamo con altre persone, questo ovviamente aumenta. In condivisione. Sì, è uno degli esercizi che uno dei più grandi ricercatori sulla felicità, che è un professore ad Harvard, dice di fare, è fare atti di gentilezza verso sconosciuti. Fantastico. Che rende felici, crea proprio nel momento in cui noi lo facciamo, il nostro sistema produce ossitocina e serotonina. E quindi questo ci rende... Ma poi mi ricorda, sai, Into the Wild era quel film con il ragazzino Alexander Supertramp, che diceva la vera felicità è quella che può essere condivisa alla fine di tutto. Certo. Sì. Ma è come un po' come una volta l'abbiamo iniziato per gioco, io e una mia amica, però in realtà abbiamo avuto l'effetto di quello che dici tu, cioè quando sei per strada incroci lo sguardo delle persone camminando sul marciapiede piuttosto che in macchina, ti giri intorno e ti capita di incrociare sguardi, vedi tutti sempre seri o pensierosi o preoccupati, se fai un sorriso vedi a un certo punto che l'altra persona lì per lì non capisce perché gli stai sorridendo e magari dice oddio la conosco, però poi ti sorride e vedi proprio che gli cambia la muscolatura, cioè proprio l'espressione del viso, assume proprio un'area proprio rilassata. Verissimo, e la ricerca conferma che non devono essere cose straordinarie, bastano piccoli gesti. Certo. Tipo tenere la porta aperta del bar quando qualcuno entra o esce, o o quando in ufficio, quando le porte dell'ascensore si stanno chiudendo e vedi un tuo collega che sta correndo verso l'ascensore, invece di lasciarle chiudere, aspettare, anche se magari questo vuol dire che tu arrivi 2 secondi dopo a destinazione, però hai fatto qualcosa di carino per qualcuno. Grande. Senti, ma visto che noi abbiamo l'occasione di parlare con un esperto, no, di felicità, so che ci sono dei metodi e tu, per sintetizzare, per semplificare la cosa, farla ricordare alla gente, hai usato questa metafora della mano, cioè il percorso, il metodo per poter diventare felici può essere racchiuso attribuendo ad un dito, ad ogni dito della mano qualcosa. È giusto? Corretto, sì. Visto che sono un maschio, ho pochi neuroni, quindi ho detto dobbiamo fare una cosa semplice. Che la capiscono anche a tutti, esatto. E visto che i passaggi di quello che a me piace chiamare il mio metodo di coaching sono 5, dopo essermi chiesto per un po' cosa c'è di facile con 5 cose, ho pensato al palmo della mano. Al palmo della mano. Ce la portiamo dietro, creando delle metafore. Quindi il pollice? Il pollice è legato allo scopo. L'autostop. La maggior parte dei miei colleghi coach, quando fanno coaching, partono dagli obiettivi, e io penso che sia un errore, perché gli obiettivi non ci rendono felici. Uh-huh. È lo scopo, cioè la ragione per la quale noi vogliamo fare le cose quella che facciamo. Uh-uh. La ragione per la quale vogliamo acquistare una macchina o di lusso o una casa più bella. Non sarà la macchina di lusso che ci darà la felicità, ma è quello che rappresenta, che potrebbe essere sono arrivato, per esempio, o sono cresciuto, quello che è. E tra l'altro anche in questo caso lo scopo ci rende felici se va oltre noi. Se lo scopo è far qualcosa per gli altri, certo, o per qualcuno. Guarda, favoloso, ma sai perché? Perché a proposito del rapporto col cane, quello che fa felice le persone, io guarda, sono ormai 18 anni che faccio questo lavoro, io vedo le persone che sono con il cane, quelle più felici sono quelle che l'hanno adottato per il cane, sono sì, quelle sì, che vanno in canile lì e non dicono che cosa sì, posso io ricavare dall'adozione di questo cane, ma è che cosa io posso dare a questa vita. Sì, certo. E quindi sì, questo è lo scopo per cui noi dovremmo avere un cane per tutti. Sì. Noi siamo degli esseri straordinari proprio perché da qualche parte Dio o la natura, dipende dalle convinzioni di ognuno, c'è installato nel cervello il fatto che se lo facciamo per gli altri siamo più felici. Ma banalmente io stamattina sono andato a correre e correre si fa fatica, ma lo faccio perché uno dei miei scopi è essere sano, ma non per me, solo per me ovviamente, ma perché, visto che ho 2 figlie, che hanno voluto un cane, io voglio essere sano per vederle crescere, far festa con loro quando si sposeranno, se si sposeranno, portare i nipotini al parco, essere sano e potermi divertire. E questo mi dà la forza di andare a correre quando non c'ho voglia. E poi certo, mi sembra che tu hai messo il perché al pollice, perché il dito più forte è quello che tiene salda la presa, esatto, no? Che non ti sfugge. Bravissimo, è il dito opponibile, l'unico dito opponibile che abbiamo, che ci permette di afferrare qualcosa e di non lasciarlo, non mai lasciarlo più. Perché le persone che hanno una forza interiore grande, possiamo fare gli esempi storici, Mandela, Madre Teresa, queste persone, perché ce l'avevano? Perché avevano uno scopo forte che andava oltre se stessi. Beh, lo facevano certo, per una causa, adesso non voglio essere troppo filosofico, però per qualcosa che va oltre me. No. Questo penso che sia la cosa più importante. Adesso senti, abbiamo tre minuti per dire le altre 4 dita. Indice, sarebbe un peccato tralasciarne la indice, la visione, dove voglio andare. Certo. Medio è quello lo sanno tutti, è più facile. Medio, è più usato. Come sono messo, la maggior parte delle persone pensano solo a come sono messi e infatti se noi guardiamo solo il dito medio sappiamo cosa vuol dire, siamo fregati. Ma se io il dito medio lo guardo e ho alzato anche il pollice e l'indice, quindi lo scopo e la visione, sono tranquillo. Annullare gli obiettivi. Uh-huh. Perché ho messo gli obiettivi da annullare? Perché l'annullare dove mettiamo la fede, che è un simbolo di impegno. No, però aspetta, allora aspetta, aiutami a capire, quindi l'indice indica la direzione. Bravissimo. Ma non sono gli obiettivi allora la direzione? No, sono due cose diverse. Gli obiettivi sono specifici. Mm-hmm. Non so, andare a Londra. Sì. La direzione è andare a nord. La direzione più ampia ci permette di essere un po' flessibili, perché con il mondo che cambia, con tutto il casino che sta succedendo, abbiamo bisogno sia di avere obiettivi specifici, magari a breve uh-huh, e medio termine, ma anche obiettivi un po' più ampi, certo, quindi una direzione. E quindi qual è la conseguenza? Cioè lo studio è un po' lo studio delle conseguenze di quel del nostro Bravissimo, obiettivo, uh-huh, lo rende ecologico. E poi gli obiettivi, fatto sono degli impegni. Io dico spesso, l'obiettivo dell'alpinista non è arrivare in vetta, altrimenti prenderebbe l'elicottero e ci arriverebbe molto prima. È bellissima questa. È il percorso, il famoso sabato del villaggio, che tutto quello che ci sta prima di arrivare al sabato del villaggio è il viaggio, quella è la parte bella, non la meta. Quindi gli obiettivi all'annulare, perché all'annulare si mette la fede, quindi ti prendi l'impegno. Di prenderti degli obiettivi, ecco, esatto. Non stimoliamo troppo questo argomento, Rosita. E al mignolo le azioni, i comportamenti, perché il mignolo è il dito che si usa per pulirsi l'orecchio, diciamo le orecchie. Buonaparte, cos'era? Buonaparte metteva la mano dentro. Mica solo lui. Ed è l'ultimo passaggio. Quindi cos'è il mignolo, scusami? Le azioni. Cosa fanno la maggior parte delle persone che conosco io? Partono da lì. Siamo verso fine anno. Cosa fanno? A fine anno dicono: ah, il prossimo anno non fumo più. O dimagrino, sì, certo. Dal primo di gennaio. Poi dal primo di gennaio sono ancora le feste. E non lo fanno mai. Non hanno la motivazione, sì. Non hanno scopo. Come lunedì, la dieta si inizia sempre di lunedì. Tutto il resto. Una ricerca uscita sia sulla Repubblica che sulla stampa di Torino 2 anni fa diceva che l'italiano medio pone gli stessi buoni propositi da 3-5 volte. Fantastico. Senza mai metterli in pratica. E poi non lo fa più, ma non perché li raggiunge, perché rinuncia. È fantastico. Claudio, noi ti dobbiamo lasciare. Dobbiamo riprendere questa chiamata. Fantastico, poi ci avremo. Sì, è vero, ci sono un sacco di cose da dire. Grazie intanto. Grazie, Claudio Belotti. Leggete i suoi libri. Ciao. Buona giornata. Grazie. Ciao. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Oh, io ti devo dire, amore, io ti devo dire una roba pazzesca. Cosa? Cioè, un articolo. C'è questo sito che noi menzioniamo sempre, Green Style, che io adoro perché è veramente interessante, dice cose interessanti. Sì. C'è una notizia fantastica. Uh-huh. Solo cani da rifugio e canili nei negozi di Los Angeles. Ma cioè? Dice addirittura un'ottima iniziativa per la salvaguardia dei randagi. Arriva da Los Angeles. Nella metropoli americana è infatti entrato in vigore un regolamento molto ferreo che vieta ai negozi di animali di vendere esemplari che non provengano da canili o da rifugi. Addirittura come normativa? Sì. Fantastico. Quindi scusami se ho capito, dei negozi di animali, articoli per animali, hanno nei loro negozi solo cani che provengono da canili. Sì, tutto a vantaggio dei tantissimi cuccioli abbandonati ogni anno da padroni senza scrupoli. Assolutamente sì. Sì, direi che è il caso. Gli allevatori si devono mettere la mano sul cuore, ci devono dare una mano su questo. Anche perché voglio dire, ci sono gli allevatori, uno se vuole un cane di razza lo va a prendere dall'allevatore, ma il negoziante vende già pappe, pannolini, guinzagli, copertine, cioè vende qualunque cosa. Sì, gli ritorna cosa, cioè perché una volta che uno ha adottato il cane poi tornerà in quel negozio. Ma assolutamente sì, quindi voglio dire, ognuno dovrebbe essere specifico. Quindi c'è la Peraltro, l'altra cosa che mi ricordo a memoria, no? Visto che la gente potrebbe essere interessata, purtroppo buona parte dei negozianti vendono cani provenienti da allevamenti, i famosi cuccioli dell'est, non so se ne hai mai sentito parlare. No. Praticamente ci sono delle grosse vagonate, camionate di cuccioli presi da allevamenti dell'est, quindi venduti a bassissimo prezzo. Sì. La metà ne muoiono circa durante il viaggio, l'altra metà si tende ad ammalarsi, ad avere un sistema immunitario debole. E poi l'altra cosa che succede è che sono staccati prematuramente dalla mamma. E noi ne parlavamo, sai quando ne parlavamo con Paola Maugeri, l'importanza di stare con la mamma. La mamma dà autoregolazione emotiva, gli autocontrolli, tutte queste cose qui. Il fatto di staccare la mamma prematuramente rende quel cane psicologicamente più purtroppo vulnerabile. Quindi danno proprio problemi di iperattività, di fragilità, di timidezza. E quindi bisogna stare molto attenti quando si vanno a comprare i negozi di animali, perché purtroppo alcuni negozianti non si fanno molti scrupoli, ti vendono i primi cani qualsiasi e spesso vanno a venderti questi cani. Per chi non sapesse che stiamo parlando di cani, questa cosa vale anche con le mamme che non vogliono adattare i propri figli. Infatti. Come dicevamo, abbiamo già detto diverse volte. No, questa iniziativa è interessante. Il nesso è allattarli non è soltanto una questione meccanica di nutrimento, ma è dare calore e conforto, che è quello che manca a questi cuccioli quando vengono staccati prematuramente. Assolutamente. Senti, poi un'altra cosa interessante che volevo dire, adesso non l'elenco è lungo, però voglio dire è interessante, magari poi ce lo mettiamo sui social. Come evitare di acquistare bordi di pellicciotti dei nostri amati animali domestici. Ecco come riconoscerli, perché noi vediamo le etichette, no? Io sempre quando dicevo questa è pelliccia, mi dicevano no, è la pen. E io lì per lì dicevo, sa, la pen sa sarà un peluche finto. Poi scopro che la penna è il coniglio. Ecco. Ti parlo di quando ero più giovane. No, ma ti è mai capitato recentemente di andare in un negozio che vende qualcosa, no, di pelle o pellicce? Tu gli dici, ma è vera? E loro ti dicono, ah sì, sì, signore, è verissimo. E tu gli dici, ah, allora non mi interessa. Sì, che l'ho fatto. Sì, dovevo prendere una borsa per il computer e pensavo fosse di ecopelle. E invece mi ha detto, sì, sì, assolutamente, coccodrillo, va arrivato, no, e sai, arrivederci. Nel momento che sappiamo che il sistema limbico è condiviso con i mammiferi, sappiamo che loro soffrono praticamente come se noi mettessimo un bambino, no, quando facciamo soffrire gli animali per ricavare la loro pelliccia. Qui stiamo parlando di pellicce. Io sono contro le pellicce, qui, ovviamente, in particolare, però, qui in particolare stiamo parlando di pelliccia di cane. O gatto. Sì, di cane, non, sull'etichetta se c'è scritto Asian, Jackal, Asiatic, Raccoon, Wolf. Questo è cane. Esatto, oppure Asian Wolf, cane procione, cane selvatico, Corsac Fox, Dogaskin, Dog of China, Finn Raccoon asiatico, Fox of Asia, Guy Wolf, Gooby, Cowpea, Lambskin, Lop Dazi, lupo asiatico, lupo cinese, Marmansky, Nakon, Pemmern, Wolf, procione asiatico, Sakon, Sobaki, Special Skin. Queste sono tutte etichette cani, che indicano che la pelliccia che state per comprare è pelliccia di cane. Mi fa impressione solamente a pensarci. Abbiamo un altro piccolo elenco per i gatti. È pelliccia di gatto, se nell'etichetta c'è scritto gatto di Cipro Gatto Lira, Genette, Goyangi, House Cat, Katzenfelle, Lipi, Mountain Cat, Wildcat e Special Skin. Quindi, dal momento che è difficile ricordarsi tutte queste cose, il nostro invito è di andare a fare una ricerca su Google, o in particolare appunto sul sito di LifeGate, che ha raccolto questo elenco, così che una persona possa ricordarseli più facilmente. Assolutamente, sempre sì, un dubbio. Oppure quando col cellulare li vai a vedere su Google immediatamente. Allora, ora abbiamo una richiesta da parte di un ascoltatore che ci dice come insegnare al suo cane il richiamo. Sì. Allora, io qualcosina la voglio dire su questo punto. Perché, vai, sebbene non sia un amante dell'obbedienza a tutti i costi, no, seduto, terra, resta, tutte queste robe qua, il richiamo è un segnale molto importante. Anche perché gli impedisce di finire sotto una macchina, di andare nei guai. Insomma. Allora, partiamo innanzitutto, magari gli dedichiamo anche dello spazio in qualche altra puntata, però partiamo dall'errore più comune. L'errore più comune per il richiamo è: il cane non torna, appena riesco a riacciuffarlo, lo legno per bene. Eccoci. Così impara a non starmi lontano. In realtà, no, siccome il cane lega il proprio comportamento, cioè l'ultima cosa che ha fatto, alla tua reazione, legherà che siccome tu l'hai riacciuffato e è tornato da te, la tua vicinanza gli crea dolore, quindi questo lo terrà lontano. Esattamente. Quindi state attenti, perché se quando il cane torna da voi finalmente, uno dice, vabbè, ma dopo 2 ore io ho perso la pazienza, va bene, sappi che ti stai sfogando, ma la cosa che succede è che in quel momento starai insegnando anche al tuo cane a starti lontano. Senti, ma è vera io prima di conoscere te mi era stato detto che se si doveva sgridare il proprio cane perché aveva fatto qualcosa che non andava, non bisognava mai farlo quando si andava a rifugiare nella sua cuccia. Ah sì, è un errore molto, molto grosso. Comune. Perché vedi, la cuccia, la copertina ripiegata per il cane, no? Quelle cose lì servono a far riposare il cane, a farlo recuperare dallo stress, è la sua isola felice, cioè lì devono accadere soltanto cose belle, così che un cane poi meno stressato, un cane i cui bisogni sono stati appagati, un cane che tira meno problemi, questo è il senso, no? Certo, quindi non soltanto certo, rendi felice lui se lo ami, ma addirittura rendi felice anche te stesso, perché altrimenti la tua vita diventa problematica. E allora mai punire il cane quando va a cuccia o nella sua cuccia. Mi raccomando, invece che punire sarebbe meglio gratificare, quindi quando fa le cose, questo vale per tutti, non solo per i cani, per i figli, positivo. Rinforzo positivo sempre fra le persone, con gli amici, quando un amico si viene a confidare che c'ha una tragedia, invece di dire io intanto tendo un po', ma sei pirla, hai sbagliato tu. Però è anche vero che non bisogna troppo dire sei bravo, ma sei, sai, fantastico, tu lì non è mai puoi sbagliato. Puoi dire se hai una relazione, se hai qualcosa che spinge a te a sdrammatizzare e farlo in quel modo. Però in generale è sempre meglio andare a porre attenzione alle cose che ci piacciono, sì, le cose che valgono, piuttosto che a quelle che invece dove una persona sbaglia. Soprattutto quando si parla di educazione, quindi di bambini o di animali o di cani. E di cani, assolutamente sì. Cosa? Tu? No, perché mi è venuto anche in mente che a volte per tirare su le mie amiche quando stanno male, oltre che rinforzo totalmente sì, positiva, che rido. Cioè, quando loro stanno male? Sì, che piangono. Cioè, che bella faccia. No, vabbè. Lo faccio. faccio per tirarle su. Vedi, è questo quello che intendo quando dico che tu sei simpatica ma non empatica, capito? Poi non è vero, non è vero. Ogni tanto ci vuole uno scossone, preferisci una pizza. Certo, certo. E invece rido, queste si mi guardano e mi dicono: che stronza che sei, Rosita. Però dopo si mettono a ridere. Meno male. Ma a proposito poi di felicità, tristezza, eccetera, noi abbiamo fatto questa settimana una bellissima serata in cui avevamo come ospiti Andrea Fianco, che è il presidente della Società Italiana di Psicologia, sì, Positiva, Morena Luciani, che è un'antropologa, Andrea Contri sulla telepatia, Guido Alberto Bormolini. Insomma, è stata una serata fantastico, splendida, che voi potrete riascoltare sotto le feste, perché Radio 24 ve la farà riascoltare. E devo dire, farà ascoltare. Cioè, cosa... No, a parte questo, voglio dire, ricordatevi sempre, se ci volete scrivere, perché noi leggiamo le vostre mail a chiedimi se sono felice @radio24.it. seguite la domenica su Radio 24, perché ci sono un sacco di cose interessanti. È una domenica speciale, no? Come ogni tanto ci piace ricordare. E adesso noi andremo a fare footing. Volevo vedere se eri attento. Come futti? No, perché io odio correre. E invece devo detta così, c'è la odi, però come ci diceva Claudio Belotti, correre è importante per rimanere sani. Ma... infatti, per quello mi è venuto in mente. Ragazzi, fantastico, passate una buona domenica. Buona domenica. Ci vediamo alla prossima, un bacione.